RadioTube Social Village di Marta Cagnola. Buongiorno e bentornati al nostro sabato insieme, tutti i sabati a Radio 24 dalle 16 alle 18 per RadioTube Social Village e RadioTube Social Network. Allora, se questo sabato faccio un po' fatica a parlare, sentite un po' le S che fischiettano, mi sto abituando all'apparecchio per i denti. Sono tornata adolescente, cercate di sopportare, insomma sto cercando di parlare per bene. Allora, bando alle ciance, questo sabato abbiamo un sacco di musica nella prima ora, degli ospiti eccezionali. Il primo è già qui con noi, invece nella seconda ora, come sempre, parleremo di rete, dell'attualità della settimana vista attraverso gli occhi della rete, ma insomma davvero tanta musica, un ospite straordinario e ce l'abbiamo subito qui con noi. Anche quando poi saremo stanchi, troveremo il modo per navigare nel buio, e tanto è facile abbandonarsi alle onde che si infrangono su di noi. Dimmi dove sei, vorrei parlarti tutte quelle cose che ho mandato già in fumo per colpa della solitudine. Non l'ho mai detto a nessuno tranne che a te. Questa sera sei bellissima, se lo sai che non è finita, abbracciami. Allora, questa canzone mi entra direttamente nella spina dorsale e questa cosa mi succede dalla prima volta che l'ho sentita a questa volta. Sono in imbarazzo. In cui mi succede un po' di più perché sono accanto a Cesare Cremonini, sono davanti a Cesare Cremonini. Cesare, cosa hai combinato? Ciao. Cesare, questo pezzo è pazzesco. Grazie. Allora, grazie. Vabbè, tutto l'album, possibili scenari, è qualcosa di meraviglioso. E vabbè, lo so che sono l'ultima a dirlo, avete letto un sacco di recensioni in questi giorni, ma Cesare, benvenuto, anzi bentornato. Grazie, è un piacere risentirti e rivederti. Ti aspettavamo da 2 anni, ma 2 anni per fare un disco del genere ti volano? Sono pochi? Perché noi pensiamo che non, cioè, lo aspettiamo con ansia, però poi hai sfornato talmente tanti singoli che poi alla fine ci si è un po' accorciata l'attesa. Io pensavo fossero pochi, nel senso che mi sono detto prenditi 2 anni così fai un disco completo e non avrai mai in nessun caso un ripensamento su quello che hai fatto. Dopodiché la prima cosa che mi è successa appena ho finito, proprio quando ho consegnato il disco, ho detto ho finito, adesso cosa faccio? Erano 2 anni che stavo seduto su una sedia, su un pianoforte, su una chitarra eccetera eccetera, ho detto vabbè vado in palestra. Sono andato in palestra come prima istintivo, non so, la prima istintiva reazione, e entro e la segretaria della palestra era diventata una donna nel frattempo, aveva un bambino in braccio, io l'avevo lasciata che era una bambina. Allora sono corso davanti allo specchio e mi sono visto, ero invecchiato pure io, mi erano venuti dei capelli bianchi. Questo vuol dire che era, in realtà io pensavo fossero pochi, sono volati, ma in realtà 2 anni della vita, 35 anni sono tanti. E questo tanto, secondo me, che si vede un po' anche nel fatto che cambiamo in 2 anni, 35 anni, si sente molto nel disco, c'è tanta vita e tanta empatia dentro questo album. Questo album è estremamente denso, estremamente denso di contenuti, di suoni, però ci sono 2 pilastri che sono secondo me molto importanti, poi vabbè come la vedo e come l'ho sentita io, nelle orecchie appunto, anche nella spina dorsale. C'è la musica, c'è l'elettronica, ci sono i suoni, ma c'è anche un grande cuore, che sono 2 cose che sono un po' difficili da mescolare insieme. Cosa ci vuole? Talento, tempo, cura per mettere insieme le 2 cose? È una cosa difficile, ci vuole sicuramente un rapporto onesto con il lavoro, cioè riconoscersi come persone che scrivono canzoni, riconoscersi come persone che vogliono fare questo mestiere per fare in modo che esista un piacere, non solo un obiettivo freddo e superficiale come il successo, no? Qualcosa che abbia a che fare per forza di cose con il piacere dell'arte, della scoperta, della musica. Se sei musicista questo lo percepisci fortemente, forse è un po' diverso per gli interpreti, ma io sono musicista, anche sono pianista, quindi la musica è ha a che fare con la tua sensibilità, deve renderti felice oppure deve compensare qualcosa, deve consolarti, quindi un rapporto onesto con i sentimenti. Dall'altro ovviamente c'è anche l'ambizione, cioè sai dove sei, sai l'età che hai, sai che cosa vuoi ottenere, quindi c'è una determinazione che ti porta avanti, e quello sì che è legato all'idea del successo, comunque, che fa parte di questo mestiere. Per successo si intende ricevere dal pubblico un feedback che ti ricompensa di un sacco di sforzi, di interesse verso qualcosa che è così aleatorio come la musica. Pensa che ti stavo per chiedere cos'è successo, l'avevo segnato qua nei miei appunti, ma a questo proposito, visto che io ho letto tutte le interviste che hai concesso in questi giorni, ho visto tutti i video, ho ascoltato un sacco di trasmissioni radiofoniche che hai fatto in questi giorni, è sempre tornato questo tema degli stadi, perché l'arrivo agli stadi è una tappa importante. Ma per te cosa rappresenta? È una legittimazione? È un sogno che si avvera? Che a quel punto poi puoi parlare guardando negli occhi Freddie Mercury e dirgli: Freddie? Beh, non esageriamo, no. La verità è che è il frutto di tantissimo lavoro, di tanti anni. Io ho iniziato a suonare il pianoforte che avevo 6 anni, come tu sai, e 10 anni dopo, quasi i miei 15-16 anni, ho iniziato a scrivere canzoni. 3 anni dopo che ho iniziato a scrivere canzoni, ho avuto la fortuna di pubblicare un disco da 1.600.000 copie, il famoso Square. Un disco talmente importante che in questi giorni ancora, siccome sai che i giornalisti non possono usare troppe volte, no? Devono evitare le ripetizioni, ogni tanto viene ancora definito l'ex cantante dei Luna Pop. Sì, ancora. No, ci sta. A me non interessa, voglio dire, sono ragioni dei giornalisti. Quello che so è che sono passati 20 anni da quel disco. In questi 20 anni il lavoro per arrivare fino a qui non è stato sempre roseo e non è sempre stato facile. E scrivere canzoni e rimanere coerente è facile dirlo dopo che, insomma, le cose vanno bene, no? Ma quando vivi dei momenti di difficoltà invece, in cui non sei così centrale, in cui magari il disco va bene ma non è così importante per gli altri, ti viene dimostrato poco interesse, la coerenza in quel momento è difficile da mantenersi, cioè l'andare dritti per il proprio binario, mantenere la propria personalità, non vendersi al pubblico, non vendersi alla discografia, non è così semplice. Gli artisti ostentano sempre molta sicurezza in loro stessi, ma in realtà sono persone estremamente fragili, perché sono al vento. Un giorno puoi avere successo, dopo 2 anni puoi essere scomparso dalle scene, questo ti rende sempre molto insicuro. E alla fine dei giochi, essere qua oggi e raccontare degli stadi, quindi del massimo che si può ottenere nella musica, è sicuramente il frutto di questo elettrocardiogramma che è la vita di un artista, e in cui hai visto i picchi andare in su, i picchi andare in giù, i momenti più stabili, però insomma la coerenza della tua personalità è riuscita a legare tutti questi picchi, allora puoi essere orgoglioso di te. Io lo sono molto da questo punto di vista. Allora, tu una volta hai dichiarato che quando scrivi le canzoni soffri. Non so trattenermi nelle canzoni, soffro. Quando faccio un disco reagisco a quello che vedo, cerco di consolare chi ascolta. Tu pensi a tutte le persone che si trovano in mano questo disco e ci metteranno dentro le loro vite, le loro esperienze? Magari cercano delle risposte. È un po' troppo grande testi. Per me la visione del pubblico, è troppo immensa, nel senso che l'Italia è un paese che sembra sottile, piccolo, ma è comunque gigante, se tu pensi a quanta gente tutte le sere accende quella lucina che vediamo nei palazzi, no? Cioè siamo in tanti, cavolo, e chi fa musica, chi fa cinema, chi fa arte non può avere una visione globale di quanta gente è lì che ti sta ascoltando, chi sono queste persone. Quello che invece è possibile è, mentre scrivi una canzone, questo è veramente possibile, è una parte del processo creativo, è mentre tu scrivi una canzone senti che stai dando voce a qualcosa di tuo, a una tua forma di mutismo che sfocia in una possibilità, trova le parole da dire per esprimersi, e senti di aver trovato a volte quello che tanta gente non riesce a dire. Questo sì, allora hai molta fiducia poi in quello che fai. Ci sono delle canzoni di questo disco, come Nessuno vuole essere Robin, mentre la scrivevo avevo la sensazione precisa del fatto che stavo dando voce a qualcosa che mi mancava, che avevo tanta voglia di dire, e sentivo che questa voce sarebbe potuta diventare la voce di tantissime persone. Non le so identificare, ma so che cos'è che proviamo, perché è il mio ruolo nel mondo sapere cos'è che proviamo, è il mio lavoro sapere che cosa proviamo. Allora, solo un attimo di pausa, perché poi voglio chiederti davvero di questa Nessuno vuole essere Robin, tra qualche istante ancora con Cesare Cremonini. Radio Tube Social Village. Come mai sono venuto stasera? Bella domanda. Se ti dicessi che mi manca il tuo cane, ci crederesti? Che in cucino tutto tranne che il sale me lo daresti? C'ho una spina in gola che mi fa male, fa male, fa male. Fammi un'altra domanda, che non riesco a parlare. Quel che vorrei dirti stasera è: non ha importanza. Siamo sempre con Cesare Cremonini. Cesare, che bello averti qui. Nessuno vuole essere Robin, che qualcuno già dice sarà il secondo singolo. Queste sono cose che mi importano relativamente. La cosa importante è che un sacco di giornalisti maschi, di quelli che l'hanno sentita in anteprima, subito hanno detto: è il pezzo più importante, più bello del disco. Perché secondo me un sacco di uomini soprattutto si rivedono in questa vita che ci costringe a essere spesso Batman, ma tutto sommato. Ma guarda, la mia sensazione, penso di dire una cosa abbastanza provata, è che gli uomini in generale tendono a sempre di più ad ascoltare cantautori o autori che raccontano anche cose molto romantiche, molto sensibili. A volte anche più delle donne. C'è un po' un'inversione di tendenza, secondo me, da questo punto di vista, proprio perché gli uomini, secondo me, sono quelli che ad oggi sono un po' più affaticati da questo bisogno, da questa necessità di essere per forza vincenti, no? E per forza non potersi esprimere attraverso le proprie debolezze. Quindi, essendo tutti quanti un po' diventati dei profili di un social piuttosto che essere in contatto con gli altri, in contatto reale, siamo profili singoli, non esistono i profili comuni, non c'è mai un profilo di Facebook che indichi un noi, è sempre, quasi sempre, un profilo singolare. Alla fine tutti questi singoli non hanno la voce giusta per potersi dire, per poter dire ti amo una ragazza, oppure, come dice Poetica, abbracciami. Oggi essere coraggiosi per me è anche dire abbracciami a qualcuno, sinceramente, cioè raccontarci come persona bisognosa di qualcosa, e gli uomini, da questo punto di vista, sono convinto che riempiranno i miei stadi, perché più loro che le donne hanno bisogno di qualcuno che li faccia da portavoce, e i cantanti diventano importanti da questo punto di vista. Ho avuto la stessa sensazione, mi sembra che tu abbia davvero colpito le corde di molti maschietti. Cesare, hai raccontato di 2 anni di grande concentrazione sulla musica e anche di un po' di rinunce, perché per fare un disco così ci devi mettere te stesso al 110-150%, immagino. Sì, sì, sì, è vero. E quando hai detto ok, il disco è fatto? Intanto dire ok, il disco è fatto non deve essere un momento facile, perché non ci puoi mettere nessuna virgola in più. È stato complicatissimo dire basta, ho finito. È stato il momento più difficile, forse, perché... E in quel momento lì che sensazione provi? Di liberazione o oddio, e adesso? La vera liberazione avviene quando tu ricevi dal pubblico un feedback che, se positivo, ti inietta nel sangue quella tranquillità che cerchi da quando hai iniziato a lavorare. E quindi io sono a posto con me stesso da quando ho visto che, tuffandomi da dove mi sono tuffato, cioè da Poetica, che secondo me era un trampolino abbastanza alto rispetto al contesto musicale nel quale è uscito, per le caratteristiche proprio tecniche. Io la prima volta che l'ho sentita, la prima volta in radio, e ho detto vabbè. No, nel senso, vabbè, che appena ho sentito la prima nota di Theremin mi è venuto un brivido infinito e ho capito ancora una volta che, vabbè, tu sei non esagerare. Una spanna sopra tutti gli altri. Grazie. Però effettivamente, Cesare, ecco, non è proprio una roba... Da lì... Sono atterrato sulle mani convinte di un pubblico che evidentemente da me si aspettava non una non l'omologazione o non il timore di fare questo mestiere. Questa reazione mi ha fatto pensare immediatamente che sono molto fortunato, perché questo coraggio di uscire con una canzone del genere mi porterà ad avere altri anni di fiducia, e la fiducia è la più grande forma la fiducia degli altri ti dà un senso di responsabilità verso quello che fai. È molto importante che ci sia, e ho avuto la fortuna di avere un pubblico che dal vivo mi sta seguendo molto, perché l'idea di fare gli stadi è un'idea che mi ha spaventato all'inizio. ma poi sono stati venduti più di 60.000 biglietti nelle prime quattro giornate, che per un musicista come me, nato davvero sui banchi di scuola, cioè una persona che non ha avuto il tempo di maturare come uomo e poi diventare qualcos'altro, sono cresciuto insieme al mio lavoro, no? Quindi il mio fallimento nella vita dipende anche dal mio fallimento professionale. Sono nato sulla musica, non ho molte altre armi a disposizione. È stata una grande, grande sorpresa e una grande, grande gioia anche. Quando parli d'amore in questo disco, come in Al tuo matrimonio, sento quei sentimenti che fanno allo stesso tempo tanto bene e allo stesso tempo tanto male, come la malinconia. Sono belli, però... È un momento di passaggio della mia vita. Io ho 37 anni e mentre faccio dischi il mio migliore amico si sposa, mentre esce il mio terzo singolo la mia amica, la mia ex si sta facendo un figlio, mentre faccio il concerto negli stadi vedo il mio babbo invecchiare. Cioè è un momento molto complicato la vita di un 37enne. Questo disco cerca un centro di gravità e quel centro di gravità è l'empatia, cioè è la gioia del vivere toccando con mano l'umanità. Il grosso problema di oggi è non sentire niente, cioè siamo in pericolo quando non sentiamo nulla, e credo che insomma la riflessione si potrebbe ampliare moltissimo da questo punto di vista. Anche questa intervista, però, se sai che non è finita, abbracciami. Purtroppo l'intervista è finita, perché purtroppo il tempo a disposizione alla radio è sempre troppo poco. Ci sarebbe da parlare delle ore di questo disco, però ci terrà compagnia, ci appiccicheremo, come dico sempre, i nostri ricordi. Io già ce ne ho un paio, secondo me, pronti da appiccicare a Poetica. Grazie, grazie. E poi ti aspettiamo agli stadi. Sì, sì, sì. Io mi aspetto anch'io agli stadi e non vedo l'ora di vedermi salire. Io ti ricordo molto emozionato prima di un forum, chissà quando ci sarà. Ogni prima volta ha una grande emozione, ogni prima volta ovviamente ha anche una grande magia. E io mi ricordo la prima volta che ho fatto un'Arena di Verona e cercavo di fermare la gamba destra che mi partiva un po' a tremare, e mi ricordo la sensazione di infinito che provi quando poi la tua mente fa click perché incontra l'applauso del pubblico, ed è il pubblico che ti libera dalla paura e ti trasformi da Robin a Batman, e poi ti accorgi che è Robin che ha scritto le canzoni ed è Batman che le canta. È un bel gioco fare il cantante. Però a noi ci piace tanto Robin, te lo confessiamo. Puoi continuare a essere bisogna vuoi riuscire a essere tutti e due, cavolo. Grazie Cesare. Ciao, abbracci, grazie. E baci a tutti quanti. Grazie. Radio 24 e Touring Club Italiano presentano Passaggio in Italia, alla ricerca dei luoghi da scoprire. Il Monferrato è una delle zone vinicole più famose del mondo. Qui tra gli altri si producono il Barbera, il Dolcetto, il Grignolino e il Moscato. Siamo nella parte orientale del Piemonte, dove le colline che si protendono dall'Appennino Ligure raggiungono la Valle Padana e il fiume Po. Il paesaggio del Monferrato è disseminato di chiese romaniche e castelli feudali a perdita d'occhio. E dopo questa lunga parentesi musicale, come sempre a quest'ora, beh, è il momento di fare un viaggio. Sono molto curiosa di sapere dove andiamo questa settimana e come sempre partiamo con Anna Rita D'Ambrosio. Ciao Anna Rita. Ciao Marta. Io come sempre stuzzico il tuo palato e... Hai capito? Lo so, parliamo sempre di cose sensibile. Parliamo sempre di cose buone, questa volta di cose buonissime, e io ho una confessione da fare drammatica. Dimmi. Parleremo di un cibo del quale ho sempre sentito parlare, ma che purtroppo non ho mai assaggiato. Quindi qual è? Oggi devo andare assolutamente, perché la manifestazione si conclude domani. Parliamo del Piemonte e quindi vi invitiamo a scaricare la nostra radioguida Radio 24 Touring Club, che parla dell'Astigiano, da cui parte la quinta edizione quest'anno del Bagna Cauda Day. Questa manifestazione è nata da un'idea di Leonardo Tessiore, sviluppata dal nostro ospite Sergio Miravalle per l'associazione Astigiani. Ciao Sergio. Salve a voi, buona Bagna Cauda. Scopro con... inorridisco nel sapere che c'è gente che non l'ha ancora assaggiata. Beh, Anna Rita sono è napoletana, dai. Vabbè, dobbiamo fare l'Italia, allora faremo anche i bagnacaudisti. Certo. Senti, l'edizione di quest'anno è ricchissima di novità, e oggi è anche una giornata un po' speciale. Sì, guarda, quest'anno per il Bagna Cauda Day è tradizionalmente l'ultimo weekend di novembre, perché la Bagna Cauda è un piatto che per tradizione iniziava ad essere consumato nelle campagne piemontesi dopo la vendemmia con il vino nuovo. È un piatto dell'autunno e dell'autunno e dell'inverno. Infatti lo slogan di quest'anno è "Sarà un autunno cardo". E a proposito di cardi, noi facciamo quest'anno ad Asti, a Palazzo Torenghi, che è nel centro storico della città, un convegno di cardologia, che non è quindi di cuore, ma è di senza dedicato la al cardo. Senza la I. Senza la I, è dedicato alla verdura principe del Bagna Cauda, quella che con più gusto si intinge in questa salsa profumata e calda di olio extravergine d'oliva, di aglio e di acciughe. Poi si intingono tutte le verdure della stagione, dai peperoni al cardo ovviamente, al topinambur, le patate lesse, i finocchi, chi più ne ha più. Ma io invito tutti quelli del sud come me a venire assolutamente al Bagna Cauda Day, perché... Beh, guarda, ci sono 150 ristoranti che la preparano contemporaneamente, per una capacità di oltre 16.000 posti a tavola. È la più grande Bagna Cauda collettiva in contemporanea nel mondo. Sergio, ma sono tutti a prezzo unico, tra l'altro, dallo stellato alla trattoria. Sì, dallo stellato alla trattoria. Noi abbiamo imposto nel senso consigliato un prezzo di 25 euro per la Bagna Cauda, che deve essere ampia, colorata, sontuosa, ricca. Non ci deve essere il coperto, il richiamo del prezzo del coperto, e la bottiglia di vino, un DOC e un DOCG piemontese, ma in altri casi anche in altre regioni usano altri vini, deve essere a 10 euro. Quindi il prezzo è in qualche modo consigliato e controllato. Questo. Senti, e poi c'è la premiazione. Tra poco daremo il premio Testa Dai, che vuol dire testa d'aglio. Quest'anno lo diamo ad Antonio Ricci, l'autore di Striscia la Notizia, anche in occasione del trentennale della trasmissione. Poi lui è uno che è andato veramente controcorrente. E poi le streghe lo temono come l'aglio, anche lui. grazie a Sergio Miravalle. Marta, come sempre, vedi, ti porto in posti straordinari per iniziative straordinarie. Straordinario tutto, grazie Anna Rita. Allora, viva la Bagna Cauda e al prossimo sabato, ciao! Grazie a voi. Ciao Ivana, allora domenica mattina andiamo a correre. Beh sì, la maratona ci aspetta. Io sono carichissimo, mi sono allenato per mesi, ho seguito tutti i consigli di Personal Best su Radio 24. Ok, allora ci vediamo domenica mattina alle 6.30 puntuale. Alle 6.30? Sì, così mentre andiamo ascoltiamo la nuova puntata di Personal Best. Ma io alle 6.30 non ce la faccio, è troppo presto. Vabbè, e la trasmissione? Che problema c'è? La possiamo ascoltare quando vogliamo, c'è il podcast. Sei proprio un podista della domenica. Personal Best di Silvio Lorenzi e Ivana Di Martino. Ogni domenica alle 6.30 su Radio 24. RadioTube Social Village. E in RadioTube questa settimana sono contenta di avere di nuovo un'amica in onda. Vabbè, noi ci vediamo tutti i giorni in redazione, però era da un po' che non stavamo insieme in studio davanti al microfono, visto che manca un mese a Natale e stiamo cominciando a comprare tutti i regali. Sono molto contenta di tornare a dare il benvenuto in sabato ad Alessandra Tedesco. Ciao Alessandra! Non si può mandare dalla regia un applauso, una ola, no. Okay, vabbè, va bene, mi accontento prepararlo prima. Alessandra, ti avevo chiesto un po' di tempo fa, dai, ma torniamo a fare una puntata sui libri, da un po' che non ne parliamo, soprattutto perché appunto un sacco di persone vanno in libreria e devono fare dei regali. Torniamo a fare una puntata di consigli? Sì, comprate i libri per Natale, la cosa più bella, il regalo più bello. Allora, primo consiglio per chi? Sempre su misura. Allora, consiglio per chi? Visto che prima parlavate un po' di viaggi, di turismo, eccetera, secondo me questo è il regalo perfetto per una persona che conoscete abbastanza, ma non troppo, ma sapete che ama particolarmente i viaggi. Si chiama Il libro dei viaggi, alla scoperta di tutti i paesi del mondo, quindi ci sono tutti, non potete sbagliarvi. Anche perché è un librone. È un librone pubblicato dall'EDT, che sarebbe la casa editrice che pubblica le guide Lonely Planet in giro, certo, per il mondo. È un librone, come puoi vedere dalle immagini, poi magari lo twittiamo, lo mettiamo su Instagram, così, che racchiude appunto 850 immagini di 230 paesi. Per ogni paese appunto ci sono alcune foto, una piccola scheda, informazioni pratiche divise per voci, tipo quando andare, da vedere, da fare. Ti faccio degli esempi. Parola chiave, c'è anche la parola chiave che è molto curiosa. Sai qual è la parola chiave del Brasile? Qual è? Tutto bene. Ah, tutto bene, beh, certo. E invece la parola chiave di Haiti, adesso te la pronuncia haitiana mia è perfetta, paplimal, che vuol dire non peggio di prima. È la tipica risposta, come stai? Mpaplimal. Ok. E poi ci sono, non so, le curiosità, per esempio in Namibia ci sono alcune piante che vivono fino a 2000 anni. Beh. Direi che insomma altro che pollice verde. Singapore si scopre che è il maggiore esportatore di pesci tropicali per acquari, insomma ce n'è veramente per tutti i gusti, per chi ama viaggiare. Alessandra, è un librone grosso grosso, sì. E allora ti faccio la mia solita domanda, quanto costa? Aia, è anche pesante, ti dico che costa 59 euro. Beh, un regalo importante è allora. Un regalo importante, secondo me ci si può mettere insieme un gruppo di amici, se si sa, se si conosce qualcuno che ama particolarmente viaggiare, però dici sai non so se è stato in quel paese, in quell'altro, così il libro dei viaggi Lonely Planet li accontenta tutti. O quelli che hanno in soggiorno quei bei tavolini con i libri. Ci sta bene. Con i libri eleganti. Vedi, tutta qua la copertina argentata, ci sta bene. Allora, a Natale, beh, in generale, quando la gente compra i regali, compra un sacco di thriller. Sì, vabbè, il thriller lo sappiamo, il genere più amato dagli italiani, thriller e gialli. Stavolta però ti consiglio un thriller italiano. In genere noi andiamo sugli americani quando si parla di thriller. Stavolta andiamo su Dammi tutto il tuo male di Matteo Ferrario, pubblicato da HarperCollins, che è una casa editrice appunto americana che adesso è iniziata a pubblicare anche in Italia. C'è una domanda inquietante nella bandella che descrive la trama. Fin dove sei capace di arrivare per proteggere chi ami? Beh, che sembra un po' il tema di The Place di Genovese al cinema. Cosa sei disposto a fare? Accidenti. C'è tutta una storia strana. Vi dico solo che c'è un papà di circa 40 anni che sta con la sua bambina Viola di 6 anni. Ogni sera lei aspetta il ritorno della mamma, che non si sa perché non tornerà. E Andrea è un assassino. Bene, bene, bene. So che gli appassionati di thriller già si sono segnati titolo però e autore. Però non ho fatto spoiler, no, non no, ho detto okay. La fine del libro e che si capisce fin dall'inizio che lui lo dice, sono stato un assassino. Ok, inizia così, perché poi qualcuno si lamenta, avete svelato la fine, no inizia assolutamente così. No. Quello cos'è? Un libro di... sentimenti, non lo so, vedo delle scarpette da danza. Guarda, è a metà strada, visto che parlavamo di thriller, questo è a metà strada fra un giallo e un romance. E l'ultimo romanzo di Alessia Gazzola si intitola Arabesque, pubblicato da Longanesi, ed è il settimo romanzo con protagonista Alice Allevi, la famosa allieva di Anatomo, sì, insomma, quella roba lì, che adesso finalmente è diventata medico legale a tutti gli effetti e deve indagare sulla morte di una ex prima ballerina della Scala che adesso ha una scuola di danza. Il suo cadavere viene trovato in un giardino con un vestito meraviglioso. Quindi sentimenti e brivido. Sì, perché insomma ci sono sempre le avventure sentimentali di Alice Allevi. Tra l'altro nel 2018 arriverà anche la seconda serie della fiction TV L'Allieva su Rai 1. Quindi insomma arrivate anche più preparati. Anche se in questo caso ti ricordi che dicevo sempre chi legge sa le cose prima? E la trama della fiction e quella dei romanzi è leggermente diversa. Vabbè, però per completezza uno legge anche il romanzo. Vedo davanti a te un libro con una copertina che mi incuriosisce. Io mi faccio spesso quello lì con la signorina che beve un calice. Ah, questo è bellissimo. Il Club dei Bugiardi di Mary Carr, pubblicato dalle edizioni EO. Mary Carr è una scrittrice americana, è quella che si è inventata il genere del memoir, e in questo romanzo racconta la sua infanzia. Lei è una bambina di 5 anni in una famiglia, diciamo così, disfunzionale ma molto buffa nel Texas. Abitano in una piccola cittadina eletta negli Stati Uniti per vari anni, la cittadina più brutta d'America. Beh, un gran primato. I genitori, entrambi, sia il padre che la madre, hanno una certa confidenza, diciamo così, con la bottiglia, quindi insomma una famiglia anche problematica, quasi dickensiana potremmo dire. Però Mary Carr ha la capacità di raccontare la sua storia, che appunto è questa storia, con un tono divertente, ironico, diciamo che è un tragico che fa ridere, ed è un romanzo veramente molto molto bello, Il Club dei Bugiardi. Vedi, già dalla copertina copertina avevo capito che era il mio libro perfetto. Vintage, un po' vintage, un po' vintage, mi piace. Bello. Per ragazzi, adulti che si sentono ancora ragazzi, cosa... Adulti che si sentono ancora ragazzi. Allora, per esempio, c'è un fantasy che è uscito da poco della scrittrice inglese Scarlett Thomas, Il Drago Verde, pubblicato in Italia da Newton & Compton, per tutti gli orfani di Harry Potter. Beh, sono tantissimi. Perché, insomma, ci sono anche qui i poteri magici, c'è una protagonista, una bambina di 11 anni, Effie, che deve scoprire i suoi poteri magici. Per invece i ragazzini un po' più piccoli, vabbè, c'è Il Diario di una Schiappa, l'appuntamento di tutti gli anni. Quest'anno il volume si intitola Avanti Tutta, di Geoff Kinney, pubblicato in Italia dal Castoro. È l'11° volume della serie della Schiappa. E ti dico che se dovete fare un regalo a un bambino dagli 8 anni in su fino ai 12-13, secondo me la Schiappa è l'ideale. E quei libroni tutti colorati che hai là? Ah, questi sono per bambini. No, lo so che gli ascoltatori dicono, ma noi non li vediamo. Li vedo io, c'è un dei bei allora, libroni colorati. Allora, il famoso libro alla radio. Questo è Il Boschetto Misterioso e questo è Il Viaggio del Vento. Sono due libri pop-up, adesso te li faccio vedere, facciamo sentire i rumori alla radio, meravigliosi. Si aprono tutti, giardini, alberi, fiori. Escono fuori tutti i fiori, gli uccellini, sono bellissimi. Sono libri per bambini, chiaramente, in questo caso di età prescolare, pubblicati dall'Ippocampo. C'è Il Boschetto Misterioso, come dicevo, Il Viaggio del Vento, insomma ce n'è veramente da scegliere. Anche altri libri colorati hai davanti a te? Guarda, sì, questa è un'accoppiata che ho fatto io, nel senso che quest'anno sono usciti un po' di libri che parlano e spiegano il senso del colore, l'importanza del colore nelle nostre vite. Per esempio, Cromorama di Riccardo Falcinelli, sottotitolo Come il colore ha cambiato il nostro sguardo, pubblicato da Einaudi. Lui è uno famoso, diciamo, visual designer della scena grafica italiana e ha fatto questo saggio, ma molto assolutamente divulgativo, sul colore. Quindi non so, c'è la descrizione di che cos'è il grigio armonico, il blu Bovary, l'indaco spettrale, quindi con cenni storici ma anche con curiosità. Molto curioso. E ho trovato l'equivalente per ragazzi, anche in questo caso pubblicato dall'Ippocampo, che si chiama Colorama. Quindi uno è Cromorama, l'altro è Colorama. Sì, diciamo, quello per bambini e ragazzi è Colorama, pubblicato, dicevamo, da Ippocampo. E in questo caso è più semplice, sempre sui colori, però vedi, ti spiega il giallo canarino, il verde bottiglia, limonata alla menta, il cedro azzurro. C'è una pagina con il colore, tutto colore, e poi sulla pagina di sinistra c'è una spiegazione, insomma. Beh, io conosco uomini che anche dopo i 40 non riconoscono i colori e conoscono solo il giallo, il verde, il rosso, il blu. Il mentre malva, noi lanciamo il malva alla radio. Un tocco di melanzana, per dire. Melanzana ci possiamo arrivare un po' tutti, ma malva, secondo me, facciamo un sondaggio. Chi è che conosce il color malva fra gli uomini all'ascolto? Guarda, secondo me andiamo serene, non lo conosce nessuno. Alessandra, ultimo minuto per un consiglio per te dal cuore? Ma un consiglio dal cuore per donne che hanno voglia di leggere storie di amicizie fra donne. Giriamola così. Ci vediamo Un giorno di questi, di Federica Bosco, pubblicato da Garzanti, la storia di due amiche, Ludovica e Caterina, che si conoscono sui banchi di scuola e poi da adulte dovranno affrontare, insomma, come sempre, ovviamente, alcuni dolori della vita. Ti dico che si ride, ma tira fuori anche il fazzoletto. Allora, regalo per le amiche. Alessandra, dai, facciamo come facevamo gli anni scorsi. Sì. L'ultimo consiglio è quello del cacciatore di libri, che ovviamente vi scaricate in podcast, ma accedete alla radio e lo trovate quando? Il sabato mattina per i mattinieri alle 6:30, per tutti gli altri alle 22:00. E poi, se non avete fatto in tempo a prendere appunti sui libri che abbiamo naturalmente citato in questo spazio, li trovate sulla pagina di Radio 24 dedicata appunto a RadioTube, ma anche sulla pagina Facebook Il Cacciatore di Libri trattino Radio 24, così insomma non ve li perdete. Grazie Alessandra, torna a trovarci. Baci. Benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali. Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario. Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio 24 è in Digital Radio. RadioTube Social Village. Ed ecco l'ultimo spicchietto del nostro RadioTube Social Village per questa settimana. Abbiamo già parlato di questo fenomeno piuttosto recente, allora, che sposa la storia della musica con la tecnologia. Un po', e c'è anche una ragione economica, dobbiamo dirlo, ovviamente escono sempre dei prodotti molto belli per quanto riguarda la musica sotto Natale, è giusto così, insomma, si possono fare anche dei bellissimi regali. Ma qui stiamo parlando veramente di arte, veramente di un grande patrimonio culturale italiano. Allora, il restauro, la rimasterizzazione della discografia di Fabrizio De André è particolarmente importante perché bisogna restituire dignità e pulizia al suono, e questa volta questo progetto è stato fatto con tutti i nastri originali, quindi proteggere, curare, insomma, coccolare la nostra tradizione e magari trasmetterla ai più giovani, ed è davvero importante farlo con Fabrizio De André. Ieri è uscito questo cofanetto che si intitola Tu che m'ascolti, insegnami. È molto particolare perché le scelte dei brani e anche dell'ordine in cui sono stati messi, un ordine tematico, è stato fatto da Dori Ghezzi. È davvero importante, noi ne abbiamo parlato proprio con Dori Ghezzi, che ci ha raccontato come è avvenuta la creazione di questo importantissimo Tu che m'ascolti, insegnami. Questa di Marinella è la storia vera. Io ho un po' smembrato quello che era il concept nato di Fabrizio e me ne sono reinventati altri quattro, perché rendendomi conto che dovendo separare tematicamente le canzoni, non sempre, ad esempio, la buona novella ci poteva stare soltanto nella spiritualità e nel sogno, e poi sarebbe stato talmente scontato e forse anche banale, e quindi ho preso alcuni brani e messo in altre zone tematiche. Ad esempio, appunto, la leggenda di Natale parla di un'infanzia negata, di una bambina che viene stuprata, per cui l'ho messa appunto nell'infanzia, ho fatto un po' questo lavoro, diciamo, ecco. Oppure l'amore non è riservato soltanto all'amore di coppia fra un uomo e una donna, quindi l'ho riservato anche ad Andrea, che è una coppia maschile, oppure a Princesa, ecco, che si trasforma da donna in maschio, perché anche loro amano. E quindi, insomma, ho cercato di fare delle scelte coraggiose, come l'ha fatto Fabrizio, del resto, quello lui voleva dire, e ho cercato di suddividere con questa, insomma, ambizione, se vuoi, tutti i brani. Quando abbiamo ascoltato un brano in conferenza stampa, è partito, tu hai cominciato a canticchiarlo tra te e te. Ti capita sempre con i brani di Fabrizio? Sì, vabbè, canticchiarlo, perché poi per frenare quasi l'emozione, perché veramente quando parte, l'ho detto, la voce di Fabrizio, io mi commuovo. È una voce che non so, come se arrivasse veramente da qualche parte strana e non terrestre. E mi commuove sempre. E per me, io la chiamo una voce miracolosa. Guarda che ascolto tantissima musica planetaria, cioè io ho una playlist veramente che è infinita di vari generi e di tutte le specie, però quando, se mi capita che poi arriva la voce Fabrizio ha un qualcosa di incredibile, cioè non so, non dovrei io dirlo, è forse una cosa soltanto soggettiva, ma ho l'impressione che questa strana sensazione la debbano avere tutti. C'è una cosa molto importante che hai detto, ed è il patrimonio e il valore dell'opera. L'opera appartiene all'artista, l'opera appartiene a chi la possiede, ma appartiene soprattutto al pubblico. Al pubblico, alla gente, non è mai tua. Cioè, se parliamo poi di musica, è ovvio, è inevitabile, ma anche un oggetto, un'opera d'arte che tu compri, hai in casa, non ti appartiene mai del tutto. E quindi non è che dici è mia e la rompo, chi se ne frega, non hai il diritto di farlo, perché quella appartiene veramente all'umanità, se è un'opera d'arte, e tu hai il dovere di conservarla per restituirla al futuro. Questo è quello che io penso. Quanto sarebbe importante adesso far capire l'importanza di quest'uomo, di quest'opera, ai ragazzi di oggi che prendono una canzone, l'ascoltano, le ascoltano in streaming, in loop, saltando una dall'altra, e invece qui c'è tutta un'altra cosa. Non lo so, forse anche noi da giovani abbiamo fatto le stesse cose, no? Abbiamo ascoltato un po' la musica così, e poi c'è il bel giorno che ti soffermi e qualcuno ti scuote e ti dice qualcosa di... che vale la pena raccogliere, questo penso che prima o poi accada un po' a tutti, tant'è vero che c'è molta attenzione, non si può negare, su Fabrizio, un po' perché sono le famiglie stesse che magari, no, ascoltando, poi inevitabilmente stradano i loro figli attraverso la musica che assorbono in casa, e poi anche a scuola ormai si studiano non solo ormai più Fabrizio, ma si comincia a studiare i cantautori, ecco, che sono quelli che fanno la poesia dei nostri tempi. Lo facevo anch'io quando ero piccolina, nei primi anni Ottanta, le mie maestre. Abbiamo visto le prime immagini di questo film, che sarà anche una serie TV, un Luca Marinelli veramente molto bravo, molto impressionante. Però io sono curiosa di sapere, quando ti sei rivista tu, che impressione ti ha fatto, visto che Valentina Bellè, che adesso è uno dei volti più emergenti, che impressione ti ha fatto? Ma ormai, sai, io ho seguito molto anche le riprese, quindi il set, quindi mi ci sono un attimo anche abituata e anche affezionata a questi attori, perché insomma, carne della mia carne quasi, insomma, direi. E quindi sì, ma sono la prima ad approvare, se no non avrei permesso. L'opera è molto bella, è venuta molto bene, molto toccante, divertente, c'è tutto il mondo che appartiene a Fabrizio. Mancano ovviamente delle cose, non puoi mettere in scena una... Quanti anni aveva Fabrizio nel fine 80? Ne aveva 50, ecco, 50, no, 40, 80, 40 anni, ecco. Sto sbagliando tutto, vedi? Ma anch'io non sono brava con la matematica. Adesso cosa sogni, Dori? Perché appunto c'è questa cura, questo amore, questa conservazione del patrimonio. Adesso qual è il tuo sogno? Il sogno è rimasto un sogno nel cassetto, soprattutto. Poi ci possono essere vari sogni. Ma quando si è fatto il sogno numero uno, con la London Symphony, eccetera, molto bello, già secondo me dovevano essere due i sogni raggruppati. Poi no, si è preferito uscire con quello per poi rinviare il secondo sogno, che è ancora lì che aspetta. Ed è quello di far interpretare ad artisti non italiani, se vogliamo, nella loro lingua, le canzoni di Fabrizio. Ma facendo anche delle scelte coraggiose, non necessariamente dei nomi eclatanti, che poi ben vengano se ci sono alcuni di loro, ma io so già chi potrebbe fare bene portandolo nel loro mondo musicale, Fabrizio. Questa è la Dori Ghezzi, l'abbiamo incontrata qualche giorno fa per questo Tu che mi ascolti insegnami. È davvero importante conservare, custodire e tramandare il patrimonio di Fabrizio De André. Noi ci fermiamo, c'è il giornale radio, ci ritroviamo dopo il giornale radio perché c'è la seconda ora di RadioTube, l'ora di RadioTube Social Network, insomma dobbiamo parlare di attualità della rete, dalla rete, con un co-conduttore d'eccezione. Ci ritroviamo tra qualche minuto.